consigliato. Non è un'antenna pesante, non è come la tua Mantova che vivo Sant'Antonio, Cazzatinilla. Questa con quella lì regola bene, non ne ha problemi. Ma trova tu, trova! Trova, via, ecco qua. Sì, allora domani è lunedì, mi sa che martedì va a tagliarmi i capelli. Martedì o mercoledì, giovedì c'ho il dentista all'una e mezza. Cappa. Io sono rompendo le balle, un attacco impianto, ma si intende un casino? No, non sento niente. Mamma, è che da voi tutto bu. Si pigliano che sta che ci cosi, non servono a nulla. Sono un trudio, sono case, per carità. Senti che idea decida fuori, hai detto la vostra infrattura a Trento, che cazzo, in giro, metto per la Ianna, giù con i picchiati da basti. Ma ha rotto le balle, ma io mi sono un poco di cacciavite, tu. Sono bene, sono buono i cacciavite, c'è da l'altro. Dai, vieni dentro, vieni. Cacciaviti da aprì come da tu, quindi, cioè, sono muori veramente per cacciaviti. No, ma la verità. No, ci mandò un botto, mi resi. Ce ne sono 10, ma sono veramente un bijou. Solo che va, solo per fingere, se tu li usi a passare si fascia, lì. Per fingere, ma su chi costa lì. Ma ci mandò un botto, esiste. Mi va. Guarda. No, già sono buoni già, hanno la tempera al cruvanadium sicuramente. Ma c'è la tempera? Sono cruvanadium sono. Sarebbe? E come uno è, per esempio c'è la betta che costruisce cacciavitti e son betta. La cruvanadium è quella più comune che si trova. Se sono marchiati cruvanadium sono buoni, i cacciaviti, fidati di me. Quelli ne hanno forza, sono buoni. Dove li hai presi? No, c'è scritto Maxtro, ma io mi dice anche Fabrizio, uguali. Fabrizio com'è? Io ho preso due pacchi, uno ce l'ho nella borsa, vabbè qualcuno me ne manca, boh, mi è sparito. Questo qua non l'ho preso per casa, dai, l'altro non lo sgabuzzino. Stavo qui laggiù 20 cacciavitti, di ghizzi, no, forse di fai 18, dai, perché qualcuno mi è sparito. E poi ho altri tipi di cacciavitti, capito? No, quella è la marca di... Allora, chi li fa di solito? Chi fa proprio la... il coso di acciaio, generalmente la cruvanadium, quella è la marca di quei, sottomarca di quei cacciavitti lì, però se tu guardi dove gira il cacciavite lì, cioè dovrebbe essere scritto cruvanadium, e quelli sono ottimi, Aspetta, cazzo, mi sei pure in ponti, hai esiste, dove cazzo c'è scritto questo? Dove è scritto un denoghi? Dove è scritto PH? Così. Aspetta, là. Denoghi, cazzo di parita. Mi sei uscita, va. Caboccia di... Caboccia di zio. Faccio uscita. C'è una lenta, poco fa, qua. Passano la ciacuglio. Vabbè, c'è scritto sopra pH 2 per 100 millimetri, come che tu altro. Ma adesso cruvanadium, non ti preoccupare, che li ho riconosciuti, sono inconfondibili. Molte volte lo scrivono sopra il metallo, così. Sono buoni, tranquillo, te lo sto dicendo io. Non è merda, sono buone. Chi ha chiamato? Va? Buonasera a tutti, Berebè. Mi risulta Bisendi. Allora, Antonio, credo che si riferisca al cromo vanadio, è il materiale di cui è composto il metallo di quegli attrezzi. Crome vanadium. E sono i migliori. Eia, sì, le chiavi betta anche sono fatte cromo vanadio, mi pare. Ah, un saluto a tutti che mi sto pigliando il caffè. Ciao, in genere, la marca... Ora, ma stai aspettando? Ora, chiusa, la spiaggia era chiusa. Cappa. Allora, in genere è così, in genere sono Chrome Vanadium, cioè proprio la tempera, il coso che fa il metallo, che costruiscono. E quello ti posso dire che quello l'ho riconosciuto subito, quelli sono cacciaviti buoni, sono, che vanno bene, magari il manico è diverso, però possono dire, i manici sono di quella ditta lì, però è una cosa proprio, funziona bene, vanno bene. Sì, non ci siete qua, diciamo che l'ho migliorata molto, 1,5. Sì, allora ero in camera e avevo il ricevitore acceso, no? Quella radiolina X-Hack Data, e volendo si può migliorare ulteriormente, perché se vuoi fare DX manda alta, intanto è una cosa minima, che basta alzare di più o abbassare la molla, adesso non mi ricordo come la tua. No, ti volevo chiedere, ma tu hai piazzato anche l'altra di antenna? No, ancora no, devo prendermi il palo, perché l'ho dato a Antonio, l'avevo promesso a Antonio, l'ho dato a lui, adesso appena mi prendo il palo, se trovo qualcuno che mi accompagna, adesso va appiedato, lì da Riata Danietta, mi compro due staffe di quelle massicce che avevo preso da GBC, da Fusaro, e piazzo anche quello. Ricordati, come ti ho detto, che risulta elettricamente lunga, quindi se con lo stub di terratura tutto abbassato, se hai ancora stazionarie sui canali alti, tipo il 40, tu glielo togli o glielo accorci un po' o glielo togli e gli fai una mastratta sul foro dello stub, no? In modo che non entri acqua dentro, e dovrebbe risuonare, capito? L'hanno fatta elettricamente lunga, di fabbrica, e non quella originale, visto che era nuova. Va bene, signori, io vado a pigliarmi il caffè e sono ancora con gli occhi incollati dalle cispe. A dopo, ciao a tutti, ciao. Vai Antonio. Anto, riprendi. Vai. Senta che va, a voglia, anche se ha 80 watt, già aiuta, dai. Beh, da 6 watt, o 5 che ne dà questa, se non lo so, mi ricordo. Al basso. Bella differenza, Gappa, ecco qua. E questa è quanto me dà. Ora, vai, scalda. Attaccando quello, tu. E adesso vediamo domani se ce la faccio, mi porto sul iPhone e se vediamo se ne smotto l'antenna, però la devo lasciare lì e poi mi devo organizzare a portarla via su. Qui c'è una borsendina, metto quella piccolina amato Marco, ah, se no me la tengo come riserva, se mai si faccia l'amato e mi piazzo grista e piaccio via. E piazzi pure quella, già va bene, e poi sul tetto c'è un bel forci, Grazie di Guarda a vedere. Ora. Male sto facendo, va bene. Benissimo, a tu, la grande. Sì, adesso scaldano la valvola, vedi. E ogni tanto va usato anche questo, Se è piccolo in modulazione, è allucinante. Vai che sta salendo, vai! Ora! Un po' forte di segnale! Ora! Sul 3, sì! Tutto a fondo della scala! Sì, al massimo! Mamma quanto sta pompando, aiuto! È una bestia questa cosa! Cosa? BV131? Ma non è normale come gli altri, BV131 con valvola modificata. Capo, Marco, ci sei? Ogni tanto questo qua va acceso, ma sta dando una potenza allucinante, sta dando. Cioè, il coso, l'arco, se scendo oltre la potenza, è una cosa che non si crede. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Vai. Mi ti ho mandato una foto e ti rendi conto tu cosa cazzo è? Vola! Cazzo, baracca! È stato un anno quanto c'hai? Un e uno ne ho. Ma un bel pompaio su gozzo, eh. Ola, ola. No, Dio santo, ma ne sta dando un bel. Minimo un chilo fatto, no? No, sono su 200, 220 saranno, 224. No, solo. Mi chiedo al po' come. Chiama di positivo, frate. No, va bene, adesso va bene. Dai, l'ho staccato. Lui se lo attacco solo quando sento lo basso, capito? Altrimenti nada. Cappa, la bistecca te la pulimo sopra. Poi zira. Questo scalda, c'ha la valvola, c'ha la bestia, pumpendi, un be. Buffa, ti ha dato due pumpendi. Cappa. Se mi faccio un altro po' di passaggi e poi lo spengo, se no chi su, io già. Ribulate la luce di quanto arrivi da me, 400 passaggi. Ah, non esagerare. Ma è un bel strane quelle cifre lì, Sono molto strane. Ola! No, adesso è salito ancora di più, lui. Ola! Ma qua chi c'ha la storia? Sì, si vede. Seduta a fondo scale, no? Guardati quella foto, Luca. Aspetta. Ma ne bomba! Cazzo! Questo quando faccio di ex, chi ci mi intende, ne passa tutti. Cavolo! La morta di nevaria, cazzo! Bello caldo è adesso, eh! Oh, basta che chi su gozzo, se no, ioia! C'è una cosa che. È una cosa impressionante! Un bel pompa, un bel. Allora, non mi dice. Le stazionarie le hai anche senza amplificatore, queste non le ho perché sono basse. Se riesci ad andare sotto è meglio, altrimenti usa il piccolo AI a meno potenza. HIMI. Uno scrive le stazionarie, più sono basse è meglio è. Ma 1,5 non è un valore assolutamente critico. Male, a faccio pure di aganna, vai. Ma quando lo posso anche abbassare, sollevare un altro pommi, non mi costa niente, salgo un attimo, lo abbasso di nuovo, e c'è la biglia in luce. Lu, vanno bene così, vanno bene. E ci ne esci tu che a fare, vai. Lu, va a vedere com'è. Vai. 1-3 trova con 747. L'ho spento perché stava pompando un bel. E altro, i segnali sono simili, capito? Siamo troppo vicini. Ma no, vabbè, ma si sentiva bene in radio, non è quello. È chiara. Gappa. Spinge troppo quello là. Senta, è bello caldo era quando stava tirando così tanta potenza. Gappa. Quello ti su bomba. 347 è un po' più limitato, ma Guido di rombe di fatto. Tu pensa, se sei stato vicino, cosa cazzo bigliavi di sberla? Ci sono stato il gioco. Chi è positivo, guardate? Mia. Tigrita caracolita, già le cigarette. Chi è lo so qua? Ohia! Cappa! Adesso un po' limitato, va! Allora ti mando una foto, Marco! Ti faccio vedere cosa pompa questa cosa! Ok! Pompando sta! Non è questo, Ehi, Anto, ma pompando stai, sai perché? Allora in camera vi sto ascoltando con un quel ricevitorino e tu mi arrivi 10 decibel microvolt più forte di Luca, cioè se Luca è 50 dB micro, Purtroppo gli Smitter non ne ha, è misurato in decibel microvolt, no? Luca 50 e tu arrivando a 60-61 decibel microvolt, è un bel forte, sicuramente stai pompando. Papà sì, adesso un po' di meno, no, adesso molto di meno. Arrivate bene, mi. Vabbè, voi siete vicini, ma c'è una ricezione quel giocattolino, porca miseria. E adesso guarda il messaggio, un attimo. Ma già non credo che arrivi a così forte, già. Ah, già stavi pompando, già. Ma c'è tanta differenza, c'è. Adesso guardo, devo vedere l'altro apparecchio, perché qua segna sempre solo fondo scala, capito? Da liscio l'attaccato per via della vicinanza. Quello là te lo segna bene, te lo segna a me. Capito? Adesso vabbè, adesso ho diminuito di batter. Quello ti segna proprio le quanti. Quanto è, capito? Abbozzami, è fuori scala è. Cioè, sta toccando a fondo dell'indicatore, ti vedi? Quello là è una bestiolina, Non è come questo, no? E questo è limitato. Quanti saranno secondo te, Marco? Commento. Quanti saranno? Mi pare che 200, 210, qualcosa del genere. Poi andrebbero misurati effettivi, no? Con il rosmetro esterno, buono, un wattmetro un po' buono, eccetera. Riprendi che voglio vedere il segnale tuo nudo e crudo dalla mia camera. Ah, ma no, adesso c'è molto, molto di meno, capo, non sto pompando. Capito, Marco? Prova a fare la prova a vedere come ti arrivo. Guarda questo passaggio qua. Aspettando che ho spostato l'antenna, porca miseria, l'antenna che poi un filo elettrico è buttato lì e non fa più a fare la prova. Però ti faccio vedere un'idea della differenza del vostro segnale prima, no? Quando stavi pompando e sei più lontano, contro. Dai, riprendete comunque, che sto facendo roba qua. E quando sto pompando era un bel. Sto dicendo che è una cosa impressionante, quando accendi quello, la propagazione ti fai a prefissa, fai. Cioè, aggiungerebbe ad un bel niente, cioè, una cosa allucinante, in Sicilia a fondo scala, una cosa che non si crede. Tu, cioè stazionario 1-1, giusto? Staccato. Eia! Se attaccato non ti salgono niente. Sempre così sono. Io un pochino salgono, fai che salgono le due, ma non è che... Ah, ma già salgo anche a me allora, perché se non aggancio, capito? Salgono, però tu devi sempre considerare che la potenza è il doppio, quindi devi ritirare il rosmetro, se no con un gatto tu le misuri. Mia, tu, nel mio gruppo l'ho messo, avendo baracchini CB e microfoni presenti nelle foto, prezzi da partire da 50 euro, a secondo del prezzo richiesto. C'è anche un amplificatore uguale identico. Ma che cosa? Il DB 131? Ma quando la volta, sì. Eia, per 50 euro si può pigliare, cambi la valvola, rimetti la valvola americana e pompa come il mio. No, da partire a 50 euro, a secondo quello che devi prendere. Sai chi è questo qua? Dovrebbe essere Riccardino. Ma vai, lui le sta prendendo. C'ha baracchini vecchi, non mi piace i baracchini così, quelli vecchi, tipo quelli che facevano già nel doppio room, a voi non mi piace i baracchini, Saturnecco sono questi, non Saturnecco, è Saturnecco, quelli che hanno la capsula ceramica. Sì, ho capito. Hai visto la foto? Sì, è uguale al mio, però sicuramente non è uguale. È uguale ma non è uguale, capito? Perché il mio c'ha la valvola americana, il mio pompa un bel. Agganciato sì ancora. No, vabbè, sto usando 747. Sì, ma si è attaccato, per... si sente. A parte il break. Adesso mi arrivi veramente a fondo, fondo, fondo, alto, ho attaccato, non ce l'ho più quello che stavo usando prima. Lì mi sentivi anche senza antenna. No, ma adesso mai arrivato a fondo scala così, come eri prima. Con fame hai sentito un bel fondo scala. Appa, non pensavo che ci fossero altre sacche da me, invece ce n'erano altre due, vedi tu. Quando accendi quello fa la buetta, anche se non è tra i più evoluti, però. No, cappa. E tu, Lu, come stanno andando le stazionarie? No, adesso sono 1-1, sono staccato. Mi sto per trovare quella geggio, a posto. L'alternata non la state più sentendo il mio segnale, perché adesso è tutto collegato, ma ho messo un cavo a spirale per la 220 e mi ha ridotto l'alternata. Un po' ce l'ha, che ci ha portato senza parlare. Capa, qualche filtro allora, perché c'ho quei caricabatterie trickle, no? Che sto provando, va giusto per gusto personale. E senza questo cavo prolunga spirale inietta un bel 50 Hz. Antonio, ma eri tu quel passaggio? Sì, avanti. Adesso non arrivo come prima, un pochettino di meno. Ho tentato ancora l'urlo io. No, non come prima, un po' di meno. Gappa. Mi stavo dicendo una cosa... come si dice? Mi stavo dicendo una cosa al telefono, mi stavo dicendo. Capito? Io rimango un po' in, come si chiama, in ascolto, ma adesso devo iniziare un po' a lavorare. Ciao, alle prossime ragazze, sono sempre qui comunque. Ciao, ce la risentiamo. Ciao a chi ha chiuso. Vabbè, Anto, contento. Spegni i segnali. No, quella cosa è... micidiale, poi più scalda a cazzo e più tira fat, cioè una cosa a macchini, cioè una cosa impressionante. Ed è, no, non è tra i più forti, guai se abbia attaccato lineare grosso in occhio, guai. L'ufumore è uscito. Già è roba da attaccare un kilowatt, ciu. Cazzo. Eia. Cosa dicevate delle stazionarie? Che 1,5 non è molto, Mianto. Guarda che da 1,5 fino a 1,5 è una cosa irrisoria, non gli fa niente al finale. Da 1,5 a 2 basta non usare potenze troppo elevate, oltre il 2 bisogna fare passaggi brevi, magari non falconiani, capito? Perché già comincia a scaldare, se usi watt, se no usi 4 watt, ma guarda che io ho usato stazionaria a 3, ho modulato con stazionaria a 3 e al finale non gli ho fatto niente, mio al baracchino. Ah, infatti non va. Poco fa Andrea mi ha detto che gli ho fatto toccare il rosso, gli ho fatto toccare. Quando ha attaccato tutta quella potenza. Ah, era Andrea adesso, no? L'ho scambiato per Salvatore, l'adiamatore di Viale San Francesco. La voce sembra uguale. No, Andrea era... Capo, ma di tu che sono arrivata alla carrozza poco fa, ma ti rendi conto, dai. Ma anche in lontananza mi sentono bene. Si vorrebbe una stazione a stentino, una stazione stabile, no? Qualcuno, qualche CB che abbia l'antenna proprio in vista di Sassari, col mare aperto proprio verso Sassari, per fare prove, e lì sono, quant'è, 35 km o di più? No, di più, un bel di più. Un poco fa c'era coso, c'era col camper, ne arrivava 7, non c'è sentito, c'era, ma... mi viene adesso. Dino c'era. Gli arrivano bene di radio e di tutto. Io gli arrivo con bene lì. 7 dici? Beh, buono però, dai. E poi non so che antenna sia quella che ha nel camper, se c'è se abbia la massa effettiva, eccetera. Va bene. Dai, riprendete voi, io sono all'ascolto in camera. Ciao, ciao. Ciao, ci sentiamo. Luca, ci sei? Sì, sono qua, sono qua. Che un po' gaffa. Cazzo, a me si aveva da fare, cazzo. Cioè, gli arrivavano più di 60 di più di te, lo sai. Beh, certo. Perché non bemme? Beh sì, aspetta un attimo, sto mandando dei messaggi. Già sono qua in ascolto. Gaffa, gaffa, dai, io mi traio un po' sul letto. Magari ci aggiorniamo dopo, là. Ci sentiamo più tardi, altro. Se mai non ci sentiamo, ci vediamo di là. Ehi, allora, no, ti porto quella roba. Facciamo vedere com'è. Caldino, caldino, non c'è niente. Già andate, dai. Stato un po' meno distante, un po' meno noioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa, che un po' meno nervosa, un po' meno. Ma sei che sono se. E poi si vedrà. Stai facendo di capo, praticamente nel computer non sentivo l'audio, c'era qualcosa che non andava, ho dovuto aprire lo spinotto e comunque non era da lì, cazzo, non ho un problema, solo uscivo, lo facevo uscire poco a poco e si sentiva bene, poi ho detto non era così, perché il software è tutto dentro, no? Dentro la scheda audio, allora apro dove c'è il regolatore del volume delle cuffie, no? E c'è un filo staccato, la ragazza, ma... Cappa. Succede, dopo ti porto quel cazzo di apparecchio, vai, non ammara, vai. Sì, verso le 8:30 tu. Intanto saremo intorno a quell'ora. Ora, ora. Poi devo mangiare a te, mangio io anche. Infatti adesso mi sono ce la faccio un pacco di crackers. Io vado male ancora, tu cazzo di qua. Ma mi ha fatto male dove c'ho. Dove mi hanno operato, cazzo mi fa male, dove mi aveva fatto un dente. Ma dimmi tu. Gappa, gappa. Ecco qua. Quale originale comunque si alza la ventola. Si alza un pochettino la ventola, si alza. Originale, capito? E adesso è passata. Dall'alimentatore. E intanto mi attaccherò quello là, quello che c'è giù qua. Uno lo uso per qua, anche se è 25 anni per questo qua. Però gli attacco, guarda, mi li attacco. Ma ti stavo dicendo anni di là, 25 ampere l'ho fatto odiare un po'. No, questo qua è buono, l'alimentatore che ho io. Cazzo un bel pesante, cazzo pesa un bel. Pesa un bel. Però mi uso l'altro, capito? Per l'ampli, mi uso l'altro, questo qua lo uso per il baracchino. Ah, capa, ti stavo dicendo lui, tiene bene, comunque non tentaggi, cos'è? Sì, allora, stabilizzato, lo tentaggi 1220, 1220S, controlla su internet. Tentaggi è? Sì, a me si manda la foto, aspetta. Ah, capo, non funziona bene, già non credo io. Funziona non bene, no, di più funzionano. Aspettina. Pure io già qualcosa ce l'ho avuto della testa G, ha già avuto uno, vabbè che si è un po' rovinato, però secondo me Babbo non ha voluto uno, non ha voluto riparare, secondo me riparava la pena. Yes. Isso, grazie a voi che vecchio. Allora, stiamo parlando in un gruppo, 100 euro. E va a comprarlo nuovo, per quanto cosa. Lo so, poi un giorno lo sta più funzionando. Vedete si è attaccato un filo. L'ho fatto a Fabrizio, però non capivo quando andavo sopra, ma va sistemato Fabrizio questo. È buono. Bello pesante. Io ne ho uno, mica lo sto usando adesso. Vabbè, l'amplificatore l'attacco là, se no soffre un bel questo, non ce la fa. 17 ampere. Insomma poco dita, cioè funziona bene, c'è un sacco di anni ce l'ho, della GBC. Poi te ne avevo dato uno lo stesso, ti ricordi? Qua ce l'ho! Ce l'hai sempre! Poi ho anche qualche ampere a 5. Eia, ma stai scherzando, quello me lo tengo. Sì, però, quelli switching vanno bene. Che, vabbè, quello che c'è tu, da. Vabbè, adesso vediamo. Domani. Gappa, ma questa piccolino è lui, questo qua va bene per fare questo. Ho... Il Ducato, lui, quando comincia a pompare, è una cosa terrificante. Cioè, spinge un bel. D'accordo. Adesso domani ho trovato un sistema. Dove attaccare. È un casino, cazzo, non ci arrivo al capo, non ci arrivo al capo, devo fare un buco, entro da lì, l'unica, buco il mobile, tanto è vecchio, cazzo me ne affuggi, cioè entro col capo diretto, e poi con l'ispettore mi gioco, sì, se faccio così, poi quando non voglio, attacco, non ne voglio, non ne attacco. Gappa, gappa, io ti faccio vedere una cosa, con quell'amplificatore attaccato, ti dà sushi, cioè... spaventi veramente, cioè cosa mi hanno misurato, te l'ho mandato adesso me. Che cosa ti hanno misurato? Quanta potenza avevo in più. ci avevo, con quell'apparecchio particolare. Cioè, ma sto scherzando, mica è un bemme. Io ho visto. Cazzo, buon pomeriggio. Cazzo, mica è un bemme. Eh sì, va bene. Già va bene. Gappa gappa. Non pensare mettendola a 4 metri che te ci fosse. Vabbè, ma sicuramente deve essere acqua buona, eh? Gappa. Sulla Ringo già va bene anche queste, quelle che ho preso vanno benissimo, se c'è il muro buono. Io ti consiglio quello che ti ho detto io. Adesso veramente belle qua, belle anche tu, belle veramente, proprio massicce. Proprio veramente belle. Ho preso queste, da parte ti rilampo. Infatti devo ricomprare di nuovo, te le faccio vedere. Ma proprio sono proprio fatti belle, cazzo. E quelle le usate per pensare un'antenna TV. Sprecate. Sprecate sì, perché andavano bene quelle che ho preso io. Allora. Gappa gappa. Cazzo bello comunque con le tagli, eh. Allora, no, una volta la manopolina dove c'è il voltaggio, no? Perché una volta la toccavo, o la passavo o la mettevo troppo malette, così so, non colpo non succede niente. Come si dice? Però funziona bene. È che vedo bizzanti, bulo. Però qua devo fare una modifica io, per forza. Devo fare una modifica. Per così non va bene, non tengo niente, è troppo alto, cazzo, è troppo alto. Insomma, mi avrei usato quello lì come coso, però vabbè. E vabbè, tanto domani mattina faccio un buco, comunque qua ce lo sbatto sotto, tanto. Va bene. La voglia. Ma te lo dicendo. E quello di centro che cosa è, quello giallo? Oh, non lo so. Non ho idea. Sarà la massa, no? Perfetto. No, non è massa, ho toccato il nero, non va, no. E allora cos'è questa cosa? Non so, non ho idea. Non dico che non va, c'è qualcosa che non sappiamo. Cioè, sinceramente parlando, non ne ho idea. Avrebbe più una massa. No, se fosse stata una massa avrebbe acceso se mettevo il nero, ma non fa. E allora cos'è questa cosa? Guarda, su internet. Cazzo, non ghigno il bocciolo. Oi, manco di cocco, oi. Qua lo sto usando da un po' e non scalda nulla, cazzo, te immagini legge. Cazzo, sta arrivando la Omicron 3, la saga continua, cazzo, preparate i popcorn. Cos'è questa cosa? Ha scritto la sorella Ivalina su Facebook, questa Omicron 3. Ma che cosa ne so pure io, boh? Unico tre, ragazzo. Roba a mangiare. Un'altra variante. Cosa? Un'altra variante. È un casino che si rimbombiano tutti i canti. Che hanno rotto le balle. Praticamente devi fare la quarta dose. Ah, e non ammara, andiamo i canti finne in chi. Sì che non siamo una medicina, me. Quale vuoi ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Quante cose sempre con i brigioni, però ho detto le fratelle perché mi stavo facendo tipo la città di stomaco, reflusso. Grazie. Mi piace un bello, cioè quanto mi piacciono le frittelle, non ho idea. Mi piace nessun problema. Sai perché te lo dico? Perché me ne sono comprato due ieri. Ieri sabato era, avanti ieri, forse avanti ieri, boh, vabbè. Lascia c'avevo reflusso. Andando in bagno a tutta andare così, eh. No, il reflusso è che ti è saduto dalla gola, dallo stomaco. Mamma mia. Ai ai ai. Sento appena appena era lì. Ma c'è scritto, ma guarda il mio, al posto, booster, qua c'è scritto, booster. poi, ciao ciao. Vabbè. Ciao a tu, ciao. Ciao Gian Rannini. Ciao, ma il tuo è scritto booster nel 747. Quale? Io non ce l'ho più. No, no, ce l'ha sempre solo se lo così, booster 747. È uguale al mio, e da, vabbè. Ma non stia aspettata, chi sono lo do più me? Questo è l'ultimo che c'era papà, e me l'ha fatto a me. Era in magazzino lampato, era. Ma l'ha venduto già. Cosa? Molto l'hai venduto. No, la paura, mi si via. Aspetta io. Ah, ho capito. Cosa? Bene, Cucco ha dato l'antenna già. Adesso stazionari è su 45, ci sono 1 e 2. Però se aggancio mi sa con 1 e 5. Ci sta, no? Sì, va bene, ce l'ha 2. Va bene, a me è il massimo. Io un 3 che mi sa. Anche agganciata. Però va bene, va bene così. E gli altri canali? Oh, 40 c'ho 1 e 1. Prima 1 e 5. Ma c'è 45, 1 e 7, 1 e 8. Ma in realtà è una sollevata. Se la sollevo alzo un po', riporta 1 e 1 tutti i canali. Perché guarda a vedere i canali bassi, quanto c'è? Vabbè, se è staccato lo sguardo. No, non ne ho, ne sono basso, non ne ho, non ne ho, 1 e 1. E allora lascia, perché già è, già si può lasciare così anche. Se poi la vuoi fare proprio perfetta, la fai. Che abbassa questa ecco per cortesia, mamma mia. Cosa? Abbassare questa ecco. Ma lei? Do you? E non è bassa. Ma anche no. Facciamo un salotto, cazzo. Vai. Ma cosa vai? Andò mai il salotto. Facciamo casino. Vabbè, salotto intendo amplificazione normale, là. Amplificato ma senza il secco, mamma mia. Allora stasera non so odiare questo cazzo di ecco. Io mi piace talmente tanto che lo odio adesso. Boh, questa è di così. Mamma mia, mi fa usare i cani da fastidio. E Dio dice che non dà fastidio, adesso sta la fastidio, non dà fastidio. Boh, sono tutti di gaggia, non è che lo sto inventando per... se non dà fastidio, buono, buono per loro. Sto ascoltando una cassa esterna, arrivi talmente forte, un quel secco, che diciamo un po' fastidioso, dai, ripete troppo. Così, regolato, se non mi dite cosa è regolato. Abbasso un po'. Guarda. Prova. Guarda il flippo, adesso mi hai fatto passare anche il burro. Oh, non ho cambiato niente, c'è sempre il secco ripetitivo. Così è chiuso, guarda. No, c'è sempre. No, prova a passare l'ecco e basta. Non è che c'è più o meno ecco. È chiuso l'ecco. Che microfono è già? Che microfono è già? Uff, vabbè, apri di prima. Forse sta cambiando apparecchio, forse. No, era quello, non era quello il problema. Il problema è che sicuramente, volontariamente sproveranno, ho toccato l'ecco dall'apparecchio, quindi entravano due ecco. sicuramente è quello. No, era quello, perché l'ho tolto, adesso bene qua. Era la grande. La trasmittere che c'è a fondo scala, sì. Cazzo. E lui era sicuramente come lo spolverato stamattina. Ho toccato la levetta dell'ecco. Vediamo c'è anche quello dell'apparecchio, capito? Ecco, va. Stavate un misù già, perfetto. E prima c'erano due ecco, gli alubri dove c'era il microfono. Comunque il microfono è l'ecco... il master plus. Ecco, va bene. Chiara, chiara. Io se adesso stavo cantando, ho finito adesso, mi sono sgolato bene. Gappa, gappa. E io mi sono passato a Costantino, mi ho fatto due canzoni. Chiara, chiara. E che canzoni hai cantato? Due, no, tre ne ho fatto. Due di Renato Zero, uno Spiaggia, l'altro più su. Uno su mille. Fagli sentire quella che mi sono poco fa in radio a Gianni, fagli sentire. No, poco fa stavo cantando io. Ah, stai cantando tu in diretta? Ehi. Ah. Ma quella devo imparare bene però. Capito? E qual è Anto? Antoine, qual è? Quella di coso di... Ma lo volevo dire in fretta e non mi è venuto. qua. Ah, no, la mara. Viaggio a Donacci. Io l'ho fatta quella lì, l'amore fra le dita. No. Sei io o sei lei, quella lì. Che pure che sono i crackers? Per l'amore fra le dita, pari così, ma è difficile, sono dovuta studiare. Se io fossi stato meno distante, un po' orgoglioso, un po' enoche, se lei fosse stata un meno gelosa, un po' nervosa, un po' meno, ma se io non ci sei, lei, sei io. A te perché facci il nome di glucosa, la colonia? Senta bicitti, cazzo! Fra le dita, la conosci? Che cosa? Un amore fra le dita, la conosci? E questa la fa imparare, aspetta che mi metto gli occhiali. È sempre di Grignani. No, questa è piace a Trevacci. No, Grignani, adesso le stavo sbagliando. Sola, sospensamento, lontano da te, di aghi pensare, occhi pintati a mie, a parte in che due essere la ta più bella, ma che falare ogni sera, ma vestire a fare ancora. La vita mia. Ma io se non la sei fatto. Sì. Domani arriverà, ma domani è vero, ma vai. stai? Chi stai? Ora come chiamo? Che mi bisogna mettere il progetto di gara, perché canta meglio tu, dai, chi stai? Aio. Mi che perdi, mi tu, mi che perdi? Io ho mullato un po', mi sto facendo dire le basi che ho fatto io, ce ne ho base, registratemi, dal computer. Vabbè. Non sarà giù Pavarotti, ma quasi. La giuria già c'è, dai. Gare, no, chi avanti. Già c'è. Perché c'è tutto quanto mare? Che sono il mare, le cose, mi va Cristian. Oh no, se scendi per nulla, no. O forse non è lui. Non so chi è. Vabbè, sto scherzando, ma io comunque per essere da poco che canto ho fatto passi da gigante. Prova a fare quella di Calobaglione, aspetta, quella che ho fatto io, però non ce l'ho fatta perché mi la schiavo un bella gola, la... adesso non mi ricordo, aspetta, avrai, prova a fare avrai. Non la conosco, la devo studiare. Vabbè, ma quello ho giocato la due prime voci, mi pare. Tu credi, qua che ti ho mandato la canzone, Luca? A me mi piace questa, mi piace, molto bella. E poi vieni con me qua, sarei arrivato io in vetta a un sogno mio. Microfono baracchino non va bene a cantare, ti capisco. Allora, mi avete fatto venire mal di testa tutti e due. Buonasera comunque. Non esce bene la voce, è troppo forte, è troppo amplificato. Luca, l'hai ricevuta quella che ho fatto io? Ehi, mi ho messo il programma, già, come non ho mai le notifiche, cazzo. No. Aspetta, vediamo se me l'apre. Ciao Tino. Ciao a tutti, ciao. Aspetta, faccio un visto che Tino è un volo d'annuncio, aspetti, faccio una prova, non te ne andare, Che pagata. Di Vasco Rossi, quella che ha fatto Antonio. Ho fatto il duetto però. Ah, io passo al circo stasera. Ma dove? Che grazie a Letta. Ah, io non conosco nessuno, io non mi piace. Non mi piace andare al circo io. Io lo sento peccato, c'è un'amica c'ha un impianto di karaoke ma fenomenale, Antonio, di ricasci anni, tutto fatto professionale. Cantiamo questa villa e facciamo le cene così, annustiamo e qui cantiamo. Lì già mi diverto, canto di amore, una... puoi cantare a squarciagola perché non ti sente nessuno che è isolato in campagna. A squarciagola no, per cantare devi seguire, se non vedi niente, alza, devi seguire il corpo, vabbè già lo sai. A che ho un mondezza faccio? Aspetta che mi arriva, all'altro mese mi arrivano le mecchi, e te lo posso vedere l'impianto a vero, pure contro a cazzi, dando la frase. Tino, ci sei? Cosa? A Tino. Aspetta un attimo che sto caricando il codice della tua parte. Sì, ok. Vuoi vedere un po', già, guarda, quanto è il segnale da te? Prova a vedere. Da proprio giusto però, eh. 1, 2, 3, prova, guarda un po'. Su per il più dell'1 e 3. Guarda adesso, aspetta. Aspetta, guarda, eh. Ma qualcosa è aumentato. A voglia. E di quanto ti? Sei troppo vicino lui. Sei quasi sul di bis, come di prima. A me è aumentato, da 9,20 fai modulato 9,25, poi si è passato da 9,38 quasi a 9,40. Sì, addirittura 9,40. Attacca. Guarda, adesso sono staccato, adesso sono attaccato, guarda un po'. No, non si è attaccato adesso, provo a vedere, poco fa si è arrivato di più. A tutti, guarda, staccato e spento. Guarda, staccato, attaccato, guarda un po'. Assolutamente no, avevamo di tu, dai, avevamo di tu. Sì, quasi 9,30 attaccato ora. Ah, ok, dai. A me tu mi arrivi in fondo scala, quindi non ti posso dare un controllo, sei troppo vicino. Allora, vedi, scusate un attimino, allora il signore Di Gianni che ha una scheggia importante è confuso, vai. Allora, tiro, staccato, quanto sono? Guarda un po'. Guarda, non parlo, guarda, fai. 9,20 fisso, se moduli vai 9,25. Ok, allora 9,20 fisso, se modulo 9,25, adesso ho attaccato, guarda attaccato, guarda un po', è 30, ci arrivo. Però non parlare, prova. No, questo lineare ti funziona solo in picchi positivi quando moduli, perché anche attaccato sei 9,20, beh, però quando moduli vai quasi a toccare 9,30. Allora io ce l'ho lo stesso, facciamo la prova. Hai capito? Tanto io ce l'ho uguale, prova tu Andrew. Allora, staccato, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova attaccato. No, non parlare però, scherzo è importante. Fermi un attimino, cazzo, state fermati con i microfoni. Ma tu, attaccato, schiaccia solo la portante senza parlare. Adesso sei attaccato. Sì, sono attaccato ora. No, tu aumenti invece. Che differenza c'è? Mette un segnale differente, tu sei per dire 9,18 staccato e vai 9,25 attaccato. Con picchi di modulazione quant'è? Non ne hai picchi di modulazione, è sempre il segnale fisso a 9,25, quasi 9,28. Già va bene. Comunque Tino, allora io sono agganciato, se vado a fischiare... Non cambia, sei sempre, anche modulato, sei sempre 9,25. La buclosso. No, proviamo a Gigi. Fai una cosa, Gianni, se puoi abbatterli con il referente, accorgi la differenza. Vabbè, sto facendo i documenti, dai, arrango un attimino in quel rischio e lo devo fare. Attino, ma non stavo andando, guarda, aspetta, guarda adesso, non stavo andando l'amplificatore, guarda un po'. Aspetta, guarda un po'. Cazzo, ma allora tu non mi ascolti, te l'ho detto che non stavo andando. Sei quasi 9,40, allora giri tu poco fa. Sei quasi 9,40, ti manca un trattino arrivare a 9,40. Cazzo, ma segna, già fa allora, dai. Già fa. Adesso guarda, sganciato. Ti è attaccato, io sono questo spezzone di merda, questo piede di coso, di... come si chiama? Diffusa, non si viene a nulla. Vabbè, vai, ti dai, siamo qua. Adesso sei attaccato, ho visto il segnale, però ti sei rimossato come quando era attaccato. Controllati quello che ho detto perché non sta andando bene. Però arrivi quasi 9,40, ti manca un trattino a 9,40, molto più alto di Antonio, eh. E poi non sta andando, vedi? Da 9,10 a 9,20. Scusate, mattina vai, mi sentiamo dopo. Intanto lo fa e non fa, ma che sta pigliata?